Raccontavano gli antichi che Eschilo, povero uomo, fu predetto che sarebbe morto perché colpito da un corpo caduto dall'alto. E per cui il poeta, che alla pelle ci teneva, prese l'abitudine di soggiornare esclusivamente in regioni affatto pianeggianti, prive di alberi di una certa dimensione e di edifici elevati, dal cui culmine potesse piombare alcunché. Finché un'aquila che aveva catturato una tartaruga e cercava a volo una bella pietra piatta su cui far cadere la preda per romperne il guscio, adocchiò il cranio calvo dell'autore delle coefone, pensò, equivocando, che fosse proprio ciò che faceva per lei e bang! Addio Eschilo. L'aneddoto rientra nel novero dei molti utilizzati per significare l'impossibilità di eludere le profezie degli oracoli, ma coglie anche l'indiscutibile dato di fatto. Dai pericoli che si presentano al nostro stesso livello possiamo guardarci con un po' di prudenza, ma rispetto a quelli che vengono da un livello più alto siamo spesso indifesi. E a nulla vale contro le tartarughe in caduta libera o i bombardamenti a tappeto aprire l'ombrello. L'apologo, volendo, si potrebbe applicare alla triste vicenda del governo Prodi, ma non è necessario. E la situazione si può riproporre a livelli anche più nobili, anche a livello planetario, aprendo dai giornali, per esempio da Repubblica del 19 febbraio, lunedì, che nel prossimo 2036 la possibilità che un corpo celeste di una certa dimensione, l'asteroide Apophis, raggiunga in picchiata la nostra Terra suscitando ogni genere di disastri, sono, da un punto di vista cosmico almeno, piuttosto elevate. Tanto che numerose organizzazioni pensose del bene del pianeta, guidate dalla B612 Foundation dell'astronauta Russell Schweikart, chiunque gli sia, hanno già allertato le Nazioni Unite affinché avviino un adeguato programma di difesa. Basterebbe predisporre una colossale astronave in grado di avvicinarsi al pericoloso oggetto e di stabilire con esso un legame gravitazionale, per poi accendere i motori e trascinarselo via nello spazio. La missione potrebbe essere realizzata in pochissimi mesi a un costo di circa 300 milioni di dollari, che non è neanche tanto se si pensa a cosa c'è in ballo. In passato, quando le risorse tecniche e finanziarie del pianeta non ci permettevano contromisure del genere, più di un oggetto ostile ha raggiunto la superficie terrestre. Il più noto, ancorché semplicemente supposto, è quello che un certo numero di ere geologiche fa ha segnato la fine dei nostri fratelli dinosauri, esclusi ben inteso quelli che siedono a vita nel Senato della Repubblica Italiana. E siccome non è detto che la realtà debba necessariamente precedere la fantasia, l'idea di un pericolo cosmico inesorabile avvicinamento è stata posta alla base di una popolarissima opera narrativa, la cui diffusione precede di gran lunga non che la scoperta dell'asteroide Apophis e qualsiasi ipotesi sull'estinzione dei dinosauri per via di incrocio siderale. E mi riferisco naturalmente all'epopea a fumetti di Flash Gordon, scritta e disegnata dal grande Alex Raymond, la cui prima puntata apparve sulle pagine domenicali di non so quanti quotidiani statunitensi il 7 gennaio 1934, sottoponendo ai lettori appunto una situazione del genere. Un pianeta sconosciuto sta per scontrarsi con la Terra. Solo un miracolo, a dire degli scienziati, può salvare un pianeta. E per fortuna, mentre in Africa gli indigeni suonano un tantame e aspettano urlando il loro destino, mentre nel deserto l'arabo rassegnato all'inevitabile si prosterna verso la Mecca e a Times Square una folla eccitata osserva il giornale luminoso che descrive l'avanzare della cometa, Flash Gordon, giocatore di polo, infatti agli stivali, e la bella Dale Arden sono spinti dal destino al laboratorio del dottor Zarkov, che li costringerà a salire secondo lui su un razzo di sua personale fabbricazione e a dirigersi a folle velocità verso l'astro sconosciuto. Basterà questo, siamo alla fine della prima tavola, per evitare l'impatto tanto temuto e ad aprire ai tre gli orizzonti di tutto un mondo nuovo, il favoloso pianeta Mongo, dove vivranno negli anni successivi le più mirabilanti avventure. Io non so se per il prossimo 2036 sia lecito prevedere qualcosa del genere, ed è comunque difficile per motivi strettamente biologici che l'evento mi riguardi di persona. vi confesso che la cosa mi dispiace molto, non tanto perché sia ansioso ad assistere a una catastrofe planetaria che potrebbe cancellare dalla superficie del pianeta quella sorta di insulsi scimmioni che hanno preso posto di dinosauri come specie dominante. Il fatto che mi ha sempre affascinato nella storia di Flash Gordon, che ho conosciuto in seconda battuta, perché è una storia degli anni 30, ma negli anni 70 mi è capitato di tradurne le tavole per una riproposizione in volume, nella storia di Flash Gordon mi ha sempre affascinato la possibilità che una vicinanza casuale permettesse, per così dire, uno scambio di mondi, che offrisse la possibilità di ricominciare da capo in un ambiente del tutto nuovo. Gordon e i suoi compagni, su Mongo, troveranno tiranni detestabili e mostri spaventosi, ma anche bellissime eroine in pericolo ed essere fantastici di grandissima bellezza, in mezzo ai quali rivivere ex novo senza alcun timore di plagio o di ripetitività i miti e le leggende e le speranze di un'umanità che per conto suo si è ormai rivelata inetta e prosaica, capace soltanto di aspettare la propria fine, con l'unica solitaria eccezione del dottor Zarkov, che ricorda un po' troppo da vicino al prototipo dello scienziato pazzo per essere completamente affidabile. È morto un pianeta, però se ne fa un altro, e l'idea che un corpo celeste portasse con sé la possibilità di un nuovo inizio mi è sempre sembrata straordinaria, come straordinaria è la saga che ne è derivata. Ahimè. Comunque vadano a finire le cose, possiamo essere sicuri che l'asteroide Apophis non è il pianeta Mongo e che nessun scienziato pazzo ci costringerà a salire su un'astronave adesso diretta. Possiamo solo sperare che quel pianetucolo ci schivi all'ultimo momento o che funzioni, per quanto a me sempre improbabile, l'ingegnoso progetto dell'astronauta Schweikart. La Terra è una sola e dobbiamo tenercela, sempre che riusciamo a portarla fino al 2036.